Easy Pop è lieta di presentarvi la nuova rubrica Le interviste di Easy Pop, un programma ideato e a cura di Franco Paoletti con la regia del Bolognese Volante. Puntata numero 7. Franco Paoletti intervista d'arte. È nel nostro salotto Easy Pop, lo spin-off di Easy Pop per essere precisi, ho il piacere di ospitare quest'oggi un giovane cantante che abbiamo più volte ascoltato la sua musica e da un po' di anni lo stiamo seguendo, si chiama D'Arte, sì proprio lui, lo conoscete sicuramente per il suo primo e bellissimo pezzo che si intitola Bella come prima, però insomma ci parlerà di questo pezzo ma anche del suo ultimo singolo appena uscito che si intitola Precipitiamo, ma io direi di far entrare D'Arte nei nostri studi. Ciao D'Arte, ben arrivato anche a te a Radio Città Fujiko, Easy Pop. Ciao a tutti, grazie mille per l'invito innanzitutto, grazie mille davvero, ciao. Allora, ben arrivato, dicevamo, un giovane autore che è diciamo in questo momento è curato dalla Aurora Aurora Dischi, che poi insomma pubblica ottima musica, soprattutto esordienti, dicevamo prodotto da Alessandro Landini, se non sbaglio, e Marco Ravelli, che conosciamo insomma come insomma Ghost, stanno dietro insomma dei cantanti interessanti, sono i ottima musica. Allora, ci racconti un po' di te, D'Arte, intanto una breve tua carta d'identità per i nostri ascoltatori che già ti conoscono, in realtà conoscono la tua musica, ma perché questo nome? Allora, io sì, infatti il mio nome è Carmelo, sono reggino, sono di origine calabrese, e il nome d'arte è nato un po' così casualmente, nel senso che dovevo dare un nome a questo progetto cantautorale, perché prima di iniziare a scrivere canzoni comunque sono sempre stato dietro un po' alla musica, scrivevo già comunque ma con un altro tipo d'approccio e con altre ispirazioni, non lo so. Quindi quando ho pubblicato il mio primo singolo, che in verità è stato Calzini di questo progetto, dovevo dare questo nome. Ho provato a fare un po' di anagrammi con il mio nome, giocando un po', ma diciamo tutti i tentativi sono stati abbastanza inutili. Poi, così per caso, un po' sono io ironico a volte, ci metto un po' di ironia nelle cose, mi serviva questo nome d'arte. Mi sono visto che proprio a fianco al nome trovavo proprio d'arte, già scritto là. Ci ho tolto l'apostrofo e è uscito fuori un po' d'arte, così, d'arte, nome d'arte appunto. diciamo c'è poco da spiegare dietro a questa all'origine di questo nome, però ecco, se non altro così. Se non altro è pronunciabile abbastanza facilmente e poi rimane in testa, perché ci sono adesso dei tuoi colleghi che veramente hanno dei nomi che noi appunto speaker facciamo sempre difficoltà appunto a pronunciare o a capire insomma come andrebbe pronunciato, e poi perché insomma questi curiosi nomi, ma evidentemente insomma ognuno è libero di fare ciò che vuole, però assolutamente, poi cioè, sicuramente come dicevamo prima durante il fuori onda, siamo tanti, quindi c'è sempre anche c'è di mezzo anche la questione di andare a trovare un nome nuovo, perché magari molte volte ci si trova a scontrare anche già con un nome già scelto, quindi certo. Poi magari l'inventiva poi ecco prende i suoi viaggi. In effetti comunque sì. No, dicevo che in effetti Mameli già lo conosciamo, è in ben compagnia con Garibaldi e con Napoleone, sono tutti artisti insomma che ben conosciamo nel mondo indie e che poi praticamente sono dei nomi comunque curiosi, no? Esatto, sì, con Mameli ho avuto il piacere di collaborare al mio terzo singolo, che è Belli come prima, come preannunciavi tu prima, e diciamo lì è stata anche una bella esperienza, una bella esperienza proprio artistica, nel senso ci siamo visti in studio, comunque lui viene da una scena abbastanza mainstream, cioè ha fatto Amici, quindi viene da un mondo abbastanza già affermato. Ho avuto il piacere proprio di collaborare con lui. Siamo stata una bella, bella finestra, ecco, che va ad aggiungersi diciamo, al mio bagaglio artistico, ecco, tutto Sì, qua. il tuo curriculum. Senti, Esatto. ma allora, sviscerando tutte queste cose, io all'inizio forse avevamo anche già intervistato, se non sbaglio, Mameli un po' di tempo fa. Io ignoravo appunto avesse fatto Amici, del resto non sono un fan proprio di questo programma, lo dico, lo ammetto, però del resto ti arrivano anche se non vuoi, diciamo di lato, no? Questi artisti. Ma volevo chiederti questo, tu con Mameli hai collaborato, ma sei finito anche nella scuola del CET di Milano, se non sbaglio, la scuola famosissima di Mogol. Che cosa hai appreso Sì. lì che ti ha cambiato, se ti ha cambiato? Allora, la cosa, diciamo che io sono andato lì come interprete. Io mi ricordo che ho avuto l'occasione di andarci tramite la mia scuola, il mio liceo, che aveva messo in palio questa borsa di studio per andare a svolgere questa settimana, perché era un corso, diciamo, un po' ristretto rispetto al corso tradizionale che fanno lì al CET. Comunque io andai lì da interprete, quindi feci il corso da interprete, però proprio perché era un corso abbastanza diciamo abbastanza ristretto, no? Ci diedero anche la possibilità di partecipare a queste lezioni di cantautori come Anastasi, lo stesso Mogol. Diciamo che è forse lì il punto forse fondamentale per me, il momento fondamentale per me che mi ha dato quella cosa in più per dire ok, forse posso anche scrivere, posso anche dire la mia, posso mettere su carta quello che sento e cantare canzoni mie. Quindi credo che sia stato fondamentale per me il CET, anche se, ripeto, sono andato lì per con altre finalità, con altri obiettivi, poi sicuramente in maniera inconscia poi ogni esperienza ti dà delle cose e credo che quella sia stata, diciamo, una tappa fondamentale per me, sì, sicuro. Anche perché Mogol ha sempre detto che chiunque può fare l'autore, può scrivere, può diventare Mogol. In realtà io ho qualche dubbio, però insomma, però se ti ha aiutato come interprete, io sono contento, ma ti ha aiutato anche come contatti, penso, con tuoi colleghi. Sì, in verità avevo avuto modo anche di stringere rapporti con ragazzi che venivano anche loro dalla Calabria, pure loro. Eravamo proprio un gruppo di tutta la Calabria. Mi ricordo che forse era la Regione Calabria che metteva a disposizione piuttosto questa borsa di studio e quindi diciamo sì, poi con qualcuno poi abbiamo avuto modo anche di vederci a fare poi qualche session di scrittura. Gli anni dopo, ecco. Però credo che sì, tutte le esperienze, anche se poi possono magari nascondere, no, delle situazioni, non dico poco piacevoli, ma diciamo, sono comunque costruttive, ecco. Tutte le esperienze secondo me sono costruttive. Perfetto. Sicuramente bisogna selezionare, ovviamente, Certo. quello che si fa, però sono dell'idea che ogni cosa può, anche una piccola briciola può sempre, diciamo, esserti utile per il futuro. Perfetto, torniamo alla tua musica. Quindi Calzini è stato diciamo, il tuo esordio vero nella musica. Poi Belli come prima ti ha portato una certa notorietà, nel senso che comunque sei stato suonato nel senso della parola, proprio musicalmente parlando, nei network, perché se non sbaglio, insomma, questo pezzo ha avuto un suo riscontro positivo dalle radio, il che è, insomma, si parte da lì, quindi io non la vedo negativa, anzi, poi addirittura sei finito, se non sbaglio, a Radio DJ, quindi insomma, un Esatto, bel biglietto da visita, no? sì. Diciamo che questo pezzo sono abbastanza, come dicevo prima, sono rimasto abbastanza soddisfatto, anzi direi quasi molto soddisfatto per così dire. No, diciamo che sì, ho avuto questo riscontro anche sì, radiofonico, che diciamo, ho avuto, cioè, sicuramente è sempre da apprezzare, e poi ho avuto la possibilità, grazie a Radio DJ, di essere selezionato per il DJ On Stage 2021. L'anno scorso siamo stati a Riccione, Linus, Zerbi e gli altri, diciamo, dello staff, diciamo, ci hanno accolto come dei big quasi. C'era praticamente era un contest dove quattro emergenti aprivano poi il concerto dei big, ok? Quindi diciamo, abbiamo fatto dal pomeriggio questo ingresso in questa bellissima piazza, e diciamo, siamo stati accolti molto bene. E poi diciamo, era il periodo poi anche post prima pandemia, quindi la piazza non era nemmeno tanto affollata proprio per le norme anti-Covid, però diciamo, è stato grandioso, è stato davvero bello. Poi poter cantare comunque una propria canzone davanti a un pubblico, davanti a una platea importante come quella del DJ On Stage, diciamo, sono rimasto molto soddisfatto, ecco. Perfetto, poi abbiamo ascoltato di te Tisane Love, dove appunto il video era molto carino, girato poi a Milano, no? Quindi diciamo una Sì. situazione urbana, ma anche la tua musica è molto urban, nel senso che tra un pezzo e l'altro, da Belli come prima, c'è questa melodia che rimane proprio, sei molto diciamo tradizionale nella melodia, però con la capacità di scrittura di oggi. In Tisane Love forse hai fatto l'inverso. Se ne Sì, parla. in Design Love volevo un po', no, mettere un po' di brio anche nel sound, anche nella produzione. Infatti è stata prodotta sempre da Landini e Ravelli, che ormai diciamo, è il duo di produttori che ormai mi stanno seguendo per gli ultimi progetti. Volevamo proprio dare questo contrasto un po' tra questo messaggio un po' malinconico di questa relazione un po' tossica, facendo questo contrasto invece con un sound molto più aperto, più scanzonato, più allegro, ecco. Diciamo che a me piace un po' sperimentare, non stare sempre nel mio piccolo orto, nella mia comfort zone. Quindi avevo chiesto proprio esplicitamente al mio produttore, no, di metterci anche del suo, anche mettendoci qualcosa che forse si allontanava dalle mie corde, ma Precisamente. che comunque mi facesse, no, esprimere quello che volevo dire nella canzone. Quindi diciamo quanto di tuo c'è dentro a ogni pezzo che scrivi? Quanto di Questa. biografico, insomma, intendo. Sì, di autobiografico, dicevi. Anche di biografia, certo. Non sempre si racconta il proprio. Io credo che ci sono certi aneddoti, certe situazioni che in maniera inconscia, in maniera anche inconsapevole, te le riporti nelle canzoni. Cioè, a meno che non hai un argomento già da dover sviluppare, credo che poi durante le sessioni di scrittura c'è sempre una piccola parte di te che ci metti dentro. E poi credo che serva mettere qualcosa di proprio, cioè comunque bisogna far sì che per scrivere qualcosa di vero, che la gente si possa riconoscere in quello che stai scrivendo, devi scrivere sicuramente qualcosa di vero, di tuo, quindi di vissuto. Quindi credo che c'è sempre una piccola parte di me. Ovviamente poi ci sta nella creatività di un autore, di un cantautore, no? Mettersi un po' di romanzare un po' le cose, metterci un po' di fantasia nelle cose. Certo. Però credo che poi, ripeto, gli aneddoti, le piccole note sul cellulare che ti annoti ogni giorno, tutto quello che vivi poi ti dà ispirazione. Quindi sicuramente c'è tanto poi di me, di vissuto, sì. E nei suoni, quindi, li scegli tu? Perché ho capito che i suoni che tu vuoi mettere nella musica sono un po' questa sensazione di urban, questi strumenti un po' sincopati, fai un po' rap, ma poi non è rap. Come focalizzi la tua musica? Cioè, puoi dare una definizione al tuo genere musicale oppure non è frutto della tua attività e quindi non riesci a farlo? Forse sì, forse sarebbe anche riduttivo dare un aggettivo, un titolo al mio tipo di musica, al mio genere, diciamo. Direi che io faccio musica pop, cioè faccio musica pop nel vero senso proprio della parola, no? Popolare, nel senso che è facile all'ascolto delle persone, quello sicuro. Poi di sicuro nella scelta poi dei suoni c'è l'aiuto, il supporto del produttore, si parte sempre a volte da un type beat. Magari a volte si utilizza proprio quello come fonte di ispirazione anche per la produzione, altre volte poi si utilizzano reference che possono essere totalmente fuori da quello che era invece il text beat iniziale, quindi si rubano, passatemi il termine, cose dai vari pezzi utilizzati come reference. Però ecco, è tutto il frutto di un team, ecco, dal produttore al Aurora Dischi, che magari anche lei nel suo, tramite la figura di Domenico, che comunque anche direttore artistico, se vogliamo direttore musicale, comunque facciamo mettiamo tutti un proprio pezzo, ecco, all'interno della produzione, quindi questo anzi per me è fondamentale, che ci sia proprio un team che ci si possa, ecco, condividere dei consigli, delle proposte, questo sicuro serve. Dei pareri, eccetera. Senti, arriviamo a Precipitiamo, il tuo ultimo singolo, che è appunto dal tuo esordio ad oggi, arrivi appunto a questo compendio appunto della tua musica. Come vogliamo presentarlo questo singolo? Allora, Precipitiamo è un brano. Lo definirei indie pop, ok, dove ci sono questi synth, queste chitarre che fanno un po' da cornice a un testo invece più cantautorale, se così vogliamo dire. E Precipitiamo parla un po' di un amore che non lascia via di uscita, diciamo, dove ci sono queste strofe dove traspare un po' un po' di rabbia, un po' mista un po' a malinconia, per lasciare spazio poi invece alle strofe dove viene sempre fuori un po' quel ricordo piacevole che c'era di quella relazione. Ok, siccome poi noi vecchi siamo abituati a esce il singolo, poi esce l'album, di fatto non è più così, insomma bisogna anche cioè buttare via questo vecchiume e dire ormai questi ragazzi vanno avanti a singoli. Da qualche giorno è disponibile invece, ma stavolta no, il tuo singolo, insomma, però ci stai pensando a una raccolta, a un EP, insomma, dove trovare tutto, insomma, il tuo bagaglio culturale, nel senso di uno vabbè si scarica le cose, però insomma dal punto di vista, non so, dell'avere un supporto fisico. Allora guarda, devo essere sincero, ci abbiamo sempre pensato a raccogliere questi pezzi, però credo che serva poi, no, il giusto concept per poterle poi raccogliere. Cioè, sicuramente tutti i miei singoli hanno un concept di fondo che è poi la mia scrittura, no? Certo. Però, ripeto, diciamo, serve anche il giusto momento per unirli, ecco, in questa raccolta, in questo album. Però ce l'abbiamo l'idea, ecco, sicuro di sicuro la cosa fondamentale è quella di raccontare cose, quindi di scrivere tanto, e poi qualora ci dovessero essere i giusti incastri, ecco, magari sì, raccoglierle credo che sarà uno dei progetti futuri. Comunque c'è, insomma, sì, perché poi oggigiorno appunto si ascolta tutto su Spotify, tutto va assai velocemente, quindi magari sì, dovresti trovare il conte giusto, magari diciamo, o un talent o sì, o diciamo, un'esibizione, magari al Festival Sanremo, insomma, un bello spazio. Esatto. A proposito di spazi, ma tu faresti un talent e poi trovi che gli spazi per voi giovani siano sempre di meno, dove esibirvi anche e proporre la vostra musica? Allora, io diciamo ho 26 anni, quando ho raggiunto l'età per poter partecipare ai talent ci ho sempre provato, ci ho sempre messo del mio. Ripeto, inizialmente come interprete lo facevo, da quando ho iniziato anche il mio progetto d'arte, ho provato anche come cantautore. Sì, io sinceramente parteciperei ai talent, ma semplicemente per il fatto che ormai sono diventati ormai la vetrina, no? Una delle vetrine principali, ma sicuramente sarebbe anche un acceleratore, no? Per la carriera di un emergente, questo sicuro, perché comunque fuori dai talent poi c'è la gavetta, se non fai il talent serve la gavetta, serve farti conoscere, quindi sicuro non è l'unico modo per emergere, ma è uno dei modi ed è un modo molto veloce, molto. A volte anche rischioso, perché a volte ci si può perdere, no? Molti escono dai talent e dopo magari non se ne sente più parlare. Quindi poi là spetta all'artista, al team che sta dietro, no? Creare il giusto tappeto rosso per poter incalanare la carriera. Però sì, sinceramente parteciperei e ci ho sempre provato. Credo che sia, diciamo, un punto strategico per la carriera di un artista. Perfetto, no, era per capire appunto, sì, forse una volta si strizzava un po' il naso, ci si diceva no, cioè non erano proprio così ben visti forse questi talent, oggigiorno insomma dal momento che comunque rimane così poco di musica in TV, mi sembra forse il palcoscenico, insomma forse qualcosa di buono si può trovare anche lì. Senti, tu vivi a Milano, trovi la differenza tra la città e la provincia dove vivevi, cioè ti ha influenzato questa esperienza nella tua musica? Sì, a me sembra di sì, sentendo i tuoi pezzi. Non so, dimmi tu. Sì, io vengo, come dicevo in apertura, io sono calabrese, quindi vengo comunque da una realtà dove di musica ce n'è sicuramente anche lì, e anche buona. Sicuramente Assolutamente. situazioni come quelle che si possono creare, ecco, in una città dove la musica, dove l'arte in generale, lo spettacolo, diciamo, fa da padrona, sicuramente mi ha influenzato e mi dà sempre una spinta in più per continuare, per continuare questo percorso, ma soprattutto mi crea anche proprio quelle relazioni che magari in un altro posto sarebbe stato difficile, no, poter creare. Per esempio, ma stavolta no, ho avuto modo di poterla proporre in anteprima durante la Milano Music Week, qui a Milano, l'Arcibellezza. Siamo andati con la band, è stato, diciamo, molto carino, molto, molto bello. Quindi situazioni come Diciamo queste. che questa è la settimana cioè è il weekend della musica, se non sbaglio, giusto? Sì, è stato qualche settimana fa, sì, Sì, qualche settimana fa a c'era la Milano. Milano Music Week, quindi questa settimana piena di eventi, di conferenze, di concerti. E ho avuto modo, tramite proprio un evento della Milano Music Week, a presentare questo singolo nuovo. E collegandomi a questo discorso, sì, diciamo che Milano come può essere Roma, come può essere Bologna. Sono città dove sicuramente per un artista è facile poter creare. Proprio, secondo me proprio è l'aria proprio che si respira oltre l'aria sporca, smog, che ce n'è tanto. Qui sicuramente ti danno quel qualcosa in più. Non so cosa, ma secondo me ti dà qualcosa in più. Sicuramente vivere in una grande città dove ci sono tanti musicisti e ci sono tante occasioni, soprattutto. Sì, c'è anche tanto scambio di idee, quindi insomma hai voglia di fare, quindi sicuramente si concretizza di più. Certo, poi siamo tanti, quindi comunque bisogna farsi, come dicevamo prima, un po' sgomitare, no? Tra i vari Colleghi, competitor, se così certo. possiamo dire. Certo. Però ecco, forse anche quello fa, no? Forse proprio quel senso, no? Di essere tanti, no? Voler emergere tra tanti, forse è proprio anche quella cosa che ti fa continuare, ti crea un'ispirazione diversa e ti aiuta in questo, sicuro. E nel privato, diciamo, d'arte cosa legge e soprattutto che cantanti ascolta? Allora, io diciamo inizialmente un po' snobbavo tutto quello che riguardava un po' il mondo urban e come dicevi tu prima un po' cerco anche di influenzare, no, la mia musica con quello che ascolto, quindi con un po' il mondo urban che mi circola attorno. Io seguo molto il mondo indipendente, vengo da questa scena, quindi mi piace anche ascoltare, no, il mondo indipendente, oltre quello il solito mainstream, no? Che si Certo. ascolta. Certo. Sì, diciamo che a me piace ascoltare gli artisti emergenti che possono essere, non lo so, faccio qualche nome, un Ariete, che ormai vabbè sarà a Sanremo questo febbraio, però diciamo tutto quel mondo indipendente mi affascina perché vedo, no, vedo ragazzi come me, gente come me che da una piccola realtà, ecco, riescono poi con la musica che fa da padrona arrivare, no, a tanta gente. Quindi seguo molto quella scena lì, assolutamente. Ho capito. Bene, allora senti, io ti faccio in bocca al lupo per il nuovo singolo che hai presentato a Milano, ma stavolta no, e anche noi staremo attenti a programmare appunto di più la tua musica che ci piace tanto, ci piace molto anche soprattutto poi la tua dizione che non è poco per degli artisti dove insomma tante volte si fa fatica a captare il testo, mentre con te insomma si va lisci veramente come l'olio, quindi per questo ti Grazie. faccio i complimenti. Quindi deve essere un tuo punto di forza, mi raccomando, te lo dico io. Ok, Che dai, dire allora, grazie dove ti trovano gli ascoltatori sui social? Dove? mille. Allora, mi trovate, ho il mio profilo Spotify, quindi d'arte, e poi potete trovarmi anche su Instagram, d'arte music, e poi sui vari canali YouTube, Facebook, sempre come d'arte, assolutamente. Ok, tu rispondi sicuramente a tutti? Sì, assolutamente, sono sempre lì pronto a scambiare sempre qualche parola con chi apprezza poi la musica, chi si fa sentire, anche se riceviamo qualche critica quando è costruttiva, mi piace anche rispondere e cogliere quel commento, quella cosa lì, assolutamente. Allora, io d'arte ti ringrazio per aver partecipato al salotto Easy Pop spin-off, questo spin-off del mio programma domenicale. Ti ringrazio e ovviamente invito Grazie. tutti così, a seguire e a seguirti. Ti strappo solo i saluti per Radio Città Fujiko. Sì, io vi ringrazio davvero per l'invito, molto piacevole come chiacchierata, come intervista. E niente, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko e nulla, grazie mille ancora. Grazie a te, ciao. Easy Pop è il salotto musicale di Radio Città Fujiko, un programma di Franco Paoletti, in onda la domenica pomeriggio dalle ore 15 alle 16, per ascoltare musica indipendente al 100%. Non ti perdere il nostro appuntamento.